Stasera il presidente Macron parlerà alla nazione per l'ennesima volta e l'attesa di tutti, leggendo i principali quotidiani francesi, è che si passerà a una nuova forma di quarantena o, come si dice in Italia, di lockdown, probabilmente in maniera più debole di quella che abbiamo vissuto la primavera scorsa, ma comunque una chiusura generalizzata. Ho fatto un piccolo giro, diciamo, una statistica con le suole, cercando di parlare un po' con le persone che incrociamo per strada, in metro o nei supermercati. L'impressione è che da una parte ci sia una rassegnazione, nel senso che si aspettava questa decisione da un po' di tempo, anche alla luce dei dati che si stavano deteriorando continuamente in maniera sempre più veloce nelle ultime settimane. E dall'altra, a differenza di quello che era avvenuto la primavera scorsa, sembrano non esserci gli episodi di panico a cui avevamo assistito, nel senso che i supermercati che io ho visitato oggi, quindi a qualche ora, diciamo, dal possibile e prevedibile chiusura di tutte le attività, diciamo che la situazione era calma, non sembravano mancare i beni alimentari sugli scaffali come avevamo visto a marzo, quindi i francesi sembrano rassegnati e più preparati, tanto psicologicamente quanto dal punto di vista, diciamo, concreto, alimentare e delle riserve. Perché probabilmente si arriverà a una nuova chiusura? La realtà è che i dati in Francia sono molto peggiori di quelli italiani e hanno cominciato a peggiorare molto prima che in Italia, ma la cosa che ha veramente fatto scattare, probabilmente vedremo stasera, ovviamente, che ha fatto scattare la decisione è il fatto che le misure prese qualche settimana fa, sostanzialmente una chiusura dalle 9 di sera in poi, una chiusura totale per cui non si può girare per strada dalle 9 di sera in poi, unita al fatto che le scuole francesi sono attualmente in vacanza, sono chiuse per un paio di settimane fino a domenica, bene, né la quarantena parziale né la chiusura delle scuole hanno contribuito a rallentare la crescita dei contagi e dei morti. E molti ospedali sono già a livello di guardia, tanto per le terapie intensive quanto per i posti per gli accessi in ospedali in generale. Ci sono stati alcuni appelli di medici che hanno chiesto di fare in fretta con la chiusura, perché in alcune parti della Francia si sta arrivando a livelli simili a quelli che si erano visti a marzo. È difficile per chi vive in Italia capire quello che avviene qua. Io ci tengo a sottolineare alcune cose, alcuni fattori che hanno portato la Francia in questa situazione qui, prima e probabilmente in maniera più pesante dell'Italia. La prima è che, al contrario dell'Italia, dove mi sembra, io vivo in Francia, ci sia stato un diffuso negazionismo sui social, in vari gradi, dal fatto che il virus non esiste o che come l'influenza, tutto questo qui è stato in misura molto molto minore. C'è stata piuttosto una renitenza dei francesi alle misure di protezione. Moltissimi, la mascherina ancora oggi, a più di 6 mesi dallo scoppio della pandemia, mostrano, diciamo, molti mostrano chiaramente di non saperla usare. C'è una poca attenzione sul distanziamento tra le persone. Diciamo che a livello di massa non si è capito e non si è percepito l'importanza di queste misure qua. Oltre al fatto che, come si è scelto in Italia, lasciare aperte le attività e non obbligare al telelavoro chi poteva, ha intasato i mezzi pubblici, soprattutto nelle grandi agglomerazioni urbane come Parigi, Marsiglia, Lione, Tolosa e le altre grandi città. L'altra cosa è che, come ho potuto vedere insieme ad alcuni italiani qui in Francia che si sono ammalati, che sono stati in stato di necessità, non c'è la minima rete di protezione sociale, nel senso che la sanità francese è ancora mutualista, diciamo come era quella italiana fino all'inizio degli anni 70, prima della creazione del sistema sanitario nazionale, per cui non c'è una vera presa in carico dei possibili positivi. Bisogna andare privatamente in un laboratorio privato in cui bisogna anticipare il costo dell'esame e soprattutto bisogna andare in un luogo pubblico con i mezzi pubblici e nonostante il fatto ci siano possibili positivi. Vedremo le misure che prenderà Macron. Come al solito saranno probabilmente un compromesso tra quello che è necessario e quello che è necessario, diciamo, all'economia, un tema a cui il Presidente è sempre stato sensibile fin dall'inizio, tanto che una buona parte di persone, a partire dai sindacati, lo accusano di aver privilegiato gli interessi economici sulla salute dei cittadini. Ci sono medici che sottolineano il fatto che se si fosse agito subito, prima e in maniera più decisa, magari con una chiusura breve di un paio di settimane, ma totale, probabilmente la situazione anche economica sarebbe stata migliore. C'è un dato interessante che è stato pubblicato in questi giorni, secondo uno studio che è stato ricevuto anche dal Ministero della Salute francese, un fattore fondamentale di contagio sembrano essere gli adolescenti e i preadolescenti. Questi soggetti infatti sembrano, poiché sono asintomatici, anche quando hanno il virus non sviluppano i sintomi pur essendo malati o li sviluppano in maniera molto lieve, fa sì che questi non vengano intercettati dal sistema di controllo e di tracciamento e che quindi siano un fattore di contagio molto forte. Questa potrebbe essere una spiegazione per cui anche in Francia, come in altri paesi, in seguito alla riapertura delle scuole a fine agosto, inizio settembre, con un ritardo di un paio di settimane dovuto all'incubazione, effettivamente anche qui l'epidemia è ripartita crescendo in maniera esponenziale di settimana in settimana e raggiungendo quindi i livelli preoccupanti di questi giorni.